Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo in apertura degli indicatori che sempre più spesso vengono utilizzati per capire come si muova l'economia, i consumi e quindi anche le scelte dei consumatori, alla luce di un oggettivo fallimento, perlomeno parziale, degli indicatori cosiddetti duri, hard in inglese, quindi quelli basati sulla statistica, sulla razionalità, sui modelli matematici, sugli algoritmi. Ormai si va a guardare tutto, si va a guardare le vendite di rossetto. Avrete letto oggi sui giornali addirittura l'andamento dei consumi, diciamo, dell'abbigliamento intimo maschile, l'underwear come si chiama in inglese, e per non parlare poi della vendita di prodotti alimentari definiti quelli popolari, mi riferisco ai fagioli in Gran Bretagna, alla pasta e al pane in Italia. Tutto questo, al di là dell'aspetto più faceto, denota una difficoltà anche da parte di chi deve fare previsioni e analizzare nel leggere la situazione. Difficoltà oggi confermata da alcuni anche dati che sono usciti in America come in Europa, in chiaroscuro. In Italia, ve lo dico subito, ma ne parleremo, come già ci ha anticipato ieri il presidente dell'ISAE. Oggi l'ISAE ha fornito il dato sulla fiducia del settore manifatturiero in Italia, quindi la fiducia degli imprenditori è salita di poco, ma è salita. Siamo comunque al livello più elevato da ottobre dell'anno scorso. Per quello che riguarda altri dati, adesso ve li racconteremo. Vi ricordo che oggi usciranno anche i dati sulle immatricolazioni in Italia, sono già usciti in altri paesi europei, sono quasi tutte, anzi direi tutte buone le notizie che arrivano sul fronte immatricolazioni auto e anche moto. E poi continuerà il nostro viaggio nell'autocritica chiesta anche dal ministro Monti al meeting di Rimini agli economisti, definiti così dei maghi, Mago Telma, Andrache, Mago di Oz e quant'altro. E noi continuiamo, prendiamo spunto dall'affermazione del ministro Monti per chiedere agli economisti se non ci sia qualcosa, insomma, di vero nell'autocritica richiesta, visto che le previsioni sono state sballate, non solo quelle degli analisti finanziari, non solo quelle degli economisti delle banche d'affari, ma anche, diciamo, degli economisti in senso più lato. 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre avremo anche il commento sulla chiusura di borsa. Le borse non stanno migliorando, anzi Francoforte perde 1,5% adesso, Parigi l'1%, Londra oggi aperta perde lo 0,80%, Milano perde l'1,20% sul FTSE MIB e anche sul FTSE All Shares. Di positivo troviamo il Banco Popolare più 2,6% ed ST Microelectronics, finito qui però, perché tutto il resto è negativo o invariato, con cali più accentuati rispetto alla media da parte di UbiBanca, che perde il 3,3%, ancora reazioni negative sui dati e sui conti della semestrale, Pirelli meno 3%, Autogrill meno 2,5%, Intesa meno 2,3% come Enel e Geox e Mediolanum, Buzzi Unice meno 2,2%, Campari Italcementi meno 2% come l'Automatica, l'1,80% lo perde Mediobanca, ma anche Saipem, Fiat, l'1,7% il calo di Mediaset, l'1,5% di Impregilo. Euro sotto quota 1,43, 1,4275. Il petrolio ha aperto in leggero calo a New York a $69.94 al barile, comunque sempre intorno a quota 70. Le altre notizie in breve. Dicevamo di notizie, indicatori contrastanti che arrivano anche dall'America, perché se l'andamento del cosiddetto indice dei direttori d'acquisto è andato meglio del previsto, è balzato a 52,9 punti, male, peggio delle previsioni, la spesa per l'edilizia, un calo dello 0,2% negli Stati Uniti, e bene però i compromessi per l'acquisto di abitazioni non nuove, altro indicatore di quelli un po' così atipici, che è andato nettamente meglio delle attese. Poche novità e quindi notizie in questo caso non buone sul dato invece europeo sulla disoccupazione. A luglio ha toccato il 9,5% nell'area euro nell'area dell'Unione Europea 16, è la più elevata, il tasso del 9,5% è il più elevato dal 1999, da 10 anni, già a giugno era stato del 9,4%, 9,5% a luglio. Praticamente si sono generati un milione di disoccupati in Europa rispetto a un anno prima. In Germania però, ecco perché continuo a parlare di notizie che sono in chiaroscuro, in Germania il dato sulla disoccupazione invece è andato meglio di ogni attesa, addirittura sono calati i disoccupati in Germania di mille persone, e le previsioni invece stimavano un aumento di disoccupati di almeno 30.000 unità. Le auto, le immatricolazioni vanno bene in Europa ma anche in Giappone. In Giappone per la prima volta hanno fatto un più 2% ad agosto, il primo rialzo nelle immatricolazioni di auto in Giappone dopo 13 mesi. In Francia molto bene, più 7% la vendita di automobili, sempre nel mese di agosto, con un netto vantaggio delle marche francesi, più 11,5%. Le altre marche straniere complessivamente hanno fatto un più 3%. Ebbene, anche in Spagna, dove le vendite di auto sono tornate per la prima volta dopo 16 mesi di calo continuo, sono tornate a crescere, sono tornate al livello praticamente di un anno fa, dell'agosto del 2008. L'effetto incentivi, qui però veniamo all'Italia, si fa sentire anche sul mercato delle due ruote. Secondo l'ANCMA, che è l'associazione che riunisce le aziende delle due ruote, le immatricolazioni di veicoli delle due ruote superiori ai 50 cc, quelli infatti che possono beneficiare degli incentivi governativi, hanno segnato più 0,2%, hanno raggiunto 20.146 unità vendute. Continuano invece a soffrire i cosiddetti cinquantini, meno 16% le immatricolazioni anche nel mese di agosto. Ebbene, è andata la quota di mercato in Italia del gruppo Piaggio, sempre ad agosto, più 1,2%, ha toccato quasi il 33% della quota del totale complessivo, la quota della Piaggio, 32,9%. La crescita è dovuta soprattutto all'aumento nel segmento del cosiddetto scooter targato, 34,7%, ma bene anche le moto sopra i 50 cc. La vicenda risanamento, sia Luigi Zunino. Vincenzo Mariconda, che è il presidente di risanamento, ha chiesto al Tribunale di Milano, alla sezione fallimentare, altri 7 giorni per il deposito del piano di ristrutturazione del debito e quindi slitta al prossimo 9 settembre. Tra l'altro i legali di risanamento hanno inviato questa mattina un'informativa alla Consob, come richiesto dalla stessa Consob, per ottenere per le banche l'esonero a lanciare un'OPA obbligatoria sulla società. Le banche creditrici di risanamento puntano tra l'altro a convincere Luigi Zunino a farsi da parte anche dalle holding di famiglia a cui fa capo la società. Queste le notizie in breve. Primo tema di apertura, la fiducia, come sta andando, come si misura e come mai, lo dicevamo in apertura del programma, stanno spuntando come funghi indicatori, devo dire già utilizzati nel passato, ma che vanno così a guardare alle cose più, anche più strane, più impensate, per cercare di capire se veramente ci sia una strutturale ripresa della fiducia o miglioramento di quello che era il pessimismo dei consumatori e delle imprese, quindi di chi deve fare acquisti e chi deve fare investimenti. Eh sì, perché se l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area euro è migliorata a sorpresa a luglio, confermando che i 16 paesi dell'Unione stanno uscendo dalla peggiore recessione degli ultimi 60 anni, l'indice comunque resta sotto i 50 punti, la soglia che separa recessione da espansione economica, è cresciuto anche l'indice dell'ISAE, come ripeto ci ha anticipato ieri il presidente dell'ISAE stesso Maiocchi, l'indice che misura la fiducia delle imprese, è salito a 74,8 punti, la cosa importante al di là dei punti che è il livello più alto dall'ottobre dello scorso anno, quindi da quando è entrata nel vivo questa crisi finanziaria. Questo è l'indicatore della fiducia. In realtà, come dicevo, avete letto anche oggi sui giornali, è tutto un proliferare di analisi, tentativi, almeno empirici, di capire da alcuni indicatori se veramente l'orientamento di consumatori e di imprese stia cambiando e veramente viene utilizzato di tutto, come ci racconta questa scheda. Che la minigonna faccia girare la testa perlomeno degli uomini è cosa risaputa. Forse lo è meno il fatto che faccia girare anche l'economia. Per i più scettici, a sostenere questa tesi esiste la Hamlin Theory, teoria dell'orlo elaborata da un economista americano negli anni 20. La prosperità economica dipenderebbe dalla lunghezza della gonna, corta in epoca di espansione e lunga in tempo di recessione. Ma in un periodo in cui le previsioni economiche classiche hanno evidenziato la loro debolezza, c'è stato un fiorire di indici meno convenzionali. È il caso del Lipstick Index, che misura la temperatura della crisi dalle vendite di rossetti, labbra più colorate in tempi di recessione economica per fronteggiare la depressione psicologica. Una dinamica scoperta alla Estée Lauder, colosso della cosmetica, subito dopo l'11 settembre 2001. Ma anche le mosse dell'universo maschile sono monitorate con attenzione. L'acquisto di biancheria intima, solitamente stabile, quando scende improvvisamente, indica che i portafogli sono più vuoti. Lo stesso ex numero uno della Federal Reserve, Alan Greenspan, ha ammesso di guardare alle vendite della biancheria maschile per misurare lo stato di salute dell'economia. Un'economia che, in Gran Bretagna, è considerata in ripresa quando le vendite di fagioli in scatola scendono. Portafoglio più pieno, dunque prodotti migliori. Targati stelle e strisce sono invece alcuni degli indici più curiosi. C'è quello delle cameriere attraenti, che implica un'economia debole. Le ragazze carine, infatti, in tempo di crisi, si devono accontentare di servire ai tavoli. Campanello d'allarme anche dall'eccessiva gentilezza dei tassisti o dalla velocità di intervento dell'idraulico. Se risponde alla chiamata entro 24 ore, allora siamo davvero in recessione. Vedo già i messaggi al 349-238-6666, adesso capisco perché si dice siamo in mutande per indicare una crisi. No, al di là della battuta, e come riportavano molti giornali, oggi sono le 24 ore, un bel articolo di Giulia Crivelli, questi indicatori hanno una loro ragion d'essere, scientifica eccessivo, empirica, danno una mano, anche perché ci troviamo di fronte a un fallimento di fatto di tutte le capacità previsionali, non solo delle grandi banche, della Banca Centrale Europea. Ieri abbiamo fatto sentire quella famosa frase di Trichet, il quale ancora a luglio diceva che il problema in Europa era l'inflazione. Ma è il fallimento un po' di tutta l'economia vista come una scienza. Diciamo, il tema non l'ha sollevato solo il ministro Monti, ma sicuramente l'ha sollevato in maniera molto precipua. Professor Giampaolo Fabris, che non fa l'economista perché insegna sociologia dei consumi all'Università San Raffaele di Milano, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Sono indicatori poco ortodossi, l'utilizzo del rossetto, la vendita di fagioli, la vendita di abbigliamento intimo maschile, la lunghezza delle gonne, ormai è un caso noto, però sembra quasi che l'economia stia riscoprendo alcuni elementi da sociologo puro, andare a guardare nei bidoni della spazzatura, perché si è resa conto che insomma naviga un po' nel buio con gli indicatori matematici, con le serie statistiche, con gli algoritmi, con tutto quello che in americano si chiama numeri e elementi hard, pesanti. Ma sì, è un segno, a mio modo di vedere, ulteriore di profondo disagio di questa scienza, di questa disciplina, a cui prima la regina d'Inghilterra, come lei ricorda, ha tirato le orecchie l'altro giorno Tremonti alla riunione di CL, adesso è come sparare sulla Croce Rossa, sparare sugli economisti, però devo dire al loro merito, a scusante loro, non è che questi indicatori siano tirati fuori dagli economisti, perché in realtà sono una quantità incredibile di sciocchezze, nessuno di questi ha mai avuto una validazione scientifica. semmai c'è un riferimento fra certi tipi di consumi e la diminuzione degli altri, per esempio il lipstick factor che lei citava, tutti i prodotti tutti i prodotti da make up, i prodotti da trucco, diciamo, in genere aumentano quando c'è una diminuzione nei consumi di abbigliamento, come se avessero una funzione di tipo sostitutivo. Però fino adesso non c'è mai stata nessuna relazione stretta tra fenomeni come quello che diceva la scheda e che poi li riportava lei e lo stato dell'economia. Semmai direi più è la disperazione del numero di persone che giocano all'Enalotto oggi. E certamente invece esistono degli indicatori, lei citava l'indicatore di ISAE di fiducia delle imprese, c'è un indicatore di fiducia dei consumatori che è certamente quello che si chiama sentiment, che è certamente invece correlato positivamente con la propensione al consumo, l'indice di fiducia per il futuro. Guardi, io ho lavorato con George Cattona all'Università del Michigan quando è stato messo a punto questo indicatore. Allora si studiava la propensione all'acquisto di beni di consumo durevoli, allora erano gli elettrodomestici, le lavatrici, eccetera, e c'era una forte correlazione fra la propensione di acquisto di questi beni qui e l'andamento dell'economia. Ecco, questo tipo di indicatori, naturalmente rivisitato perché oggi gli elettrodomestici non hanno più un senso, sono indicatori reali da guardare con serietà. Le altre sono, per rispetto a lei non dico invenzioni giornalistiche, ma insomma dico fantasiose invenzioni, no. Tanto per fare un piccolo scoop. Per carità, io sono d'accordo con lei e tranquillizzo anche gli ascoltatori, noi continueremo a dare le notizie e i dati hard, quelli dell'Istat, l'inflazione, i dati aggregati, gli indici dell'ISAE, le previsioni dei centri studi. Quello che mi sembra in questo caso giornalisticamente innegabile è che il camminare quasi bendati, l'andare avanti così passo dopo passo delle analisi, lo si vede anche dall'utilizzo di questi elementi. Voglio dire, la difficoltà previsionale, per usare un linguaggio un po' più alto, dei vari istituti, la sberla che hanno preso con una crisi che nessuno aveva saputo prevedere nelle sue dimensioni, beh, si vede anche dal ricorrere appunto al numero di venta di fagioli e di biancheria intima maschile. È sicuramente un indicatore delle difficoltà, dell'imbarazzo, insomma, in cui versano i previsori. Potrebbe però essere, professor Fabris, che alcuni consumi traggano in inganno. Mi spiego. Potremmo vedere un calo nel, o un aumento, poniamo un aumento nell'uso del rossetto, non tanto perché, o non solo perché c'è una maggior sfiducia nel futuro, ma anche perché strutturalmente uno da questa crisi impara che può rinunciare al parrucchiere una volta in più al mese e usare un rossetto come elemento sostitutivo, ma come cambiamento strutturale a quel punto, per cui non si torna più indietro. Sì, a mio modo di vedere è così. È impopolare dirlo che questa crisi abbia delle conseguenze anche virtuose, ma è assolutamente così. Noi non dobbiamo dimenticare che questa non è una crisi che è scoppiata nel settembre-ottobre del 2008, da noi è una crisi strisciante che è cominciata con redditi che non hanno tenuto il passo con l'inflazione, con una serie di fenomeni strutturali che hanno profondamente impoverito il paese e cambiato anche il paese prima dello scoppiare della crisi, che poi hanno coagulato e hanno avuto un effetto poi combinato congiunto molto importante. Per quello che io almeno da anni vado sostenendo che quando usciremo dalla crisi, dal tunnel, troveremo ad aspettarci un consumatore che è profondamente diverso. E come lei dice, basta guardare un po' con attenzione certe tipologie di consumo per accorgersi. Le faccio un esempio, ma veramente c'è l'imbarazzo della scelta al proposito. In un momento in cui c'è stata una diminuzione anche dei consumi alimentari, i prodotti biologici che costano un 15-20% in più sono aumentati in termini di consumo. C'è una attenzione molto forte da parte, Cito l'alimentazione perché in qualche maniera è uno straordinario paradigma per studiare il cambiamento nei consumi. Quello che avviene nell'alimentazione a distanza più o meno ravvicinata avviene in altri: i farmers market, il chilometro zero, l'approvvigionamento diretto alla fonte. Certamente sono stati tutti determinati da ragioni economiche, spendo meno, ma il consumatore ha scoperto anche il prodotto biologico, ha scoperto i prodotti col territorio, la biodiversità, la stagionalità dei prodotti, il consumo di CO2 di prodotti che vengono da molto lontano. E a mio modo di vedere è una lezione questa che hanno appreso gli artigiani o grandi imprese non italiane. Proprio con Giulio Tremonti abbiamo fatto qualche settimana fa una riunione, una tavola rotonda che aveva come titolo Low Cost High Value, costo basso ma valore percepito alto, che è questa emergenza grossa e importante di aziende che si chiamano IKEA, Ryanair, H&M, Zara, e tutte queste aziende che vendono a prodotti a prezzi medi, medio-bassi, dei prodotti che sono percepiti come di qualità da parte del consumatore. Aziende che fanno dei risparmi sulla qualità, ma che tutto sommato non incidono sulla percezione del bene. Se Ryanair non mi dà lo snack o il caffè non importa, se IKEA fa la parte di dietro dell'armadio non in legno massello ma intrucciolato, va bene lo stesso. Questo è un grande protagonismo nuovo di un settore economico in cui purtroppo le aziende italiane sono assenti, ma sarà un fenomeno, a mio modo di vedere, assolutamente travolgente nei prossimi anni. Quindi low cost, high value, basso costo, alto valore, dove per valore si intende chiaramente non quello economico, ma il valore soggettivo di fruizione. Allora, io ringrazio intanto Gianpaolo Fabris, perché abbiamo capito che anche con tutti i limiti che lei giustamente ricordava di questi indicatori, che ogni tanto fanno sorridere, servono i giornali per fare un po' di colore, però... Cioè, il dato di fatto, il dato forte è che insomma, dimostrano come anche chi deve fare previsioni si stia muovendo tastoni un po' nel buio. Grazie quindi a Gianpaolo Fabris, docente di sociologia dei consumi all'Università San Raffaele di Milano. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare tra pochissimo anche di questa giornata di borsa, -1,80%, chiusura sui minimi per Piazza Affari, peggio ha fatto Francoforte, -2,4%, Parigi -1,90%, e Londra -1,4%, perché è peggiorata l'America, perde 1,5% adesso il Dow Jones, e l'1,4% è il calo del Nasdaq. Ribadisco, UbiBanca, Intesa, i peggiori titoli, -3,80% UbiBanca, -3,3% Intesa San Paolo. Vorrei però chiudere questo approfondimento sul proliferare di quelli che abbiamo chiamato indicatori non convenzionali, un po' come si fa con le armi, e appunto per chi si fosse messo in collegamento, il rossetto, la vendita di pasta, la lunghezza delle gonne delle donne, addirittura in America la cortesia dei tassisti e quanto è facile reperire un idraulico. Per capire se, oltre che agli economisti e quindi a chi va a analizzare poi come si muoveranno i consumi e gli investimenti di consumatori e imprese, questi indicatori non convenzionali possono servire anche per analizzare le scelte di chi investe, quindi il cittadino come risparmiatore, di chi investe in borsa o di chi investe comunque in titoli di Stato, di chi compie deve allocare i propri risparmi. Grazie quindi a Barbara Lemanni, che è docente di finanza comportamentale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professoressa. Buonasera. Anche chi analizza l'orientamento, gli atteggiamenti degli investitori, dei risparmiatori sul mercato può essere interessato a quelli che noi abbiamo chiamato indicatori non convenzionali. Non mi riferisco solo al rossetto, alla lunghezza delle gonne, a certi tipi di consumi. Sì o no, innanzitutto, e poi vediamo di capire perché. Certamente sì, le ragioni sono numerose. Prima tra tutte il fatto che nei mercati finanziari non sono solo i modelli matematici a dirci come comportarci, ci sono molti elementi di irrazionalità che sono ampiamente ormai riconosciuti, che muovono i mercati in direzioni necessariamente, non necessariamente identiche a quelle che i modelli matematici prevedono. E nei modelli matematici, diciamo, come dicevo prima, questi elementi non possono essere presi in considerazione. Ma può essere, per essere un po' maliziosi, che questa scoperta o riscoperta di indicatori non convenzionali, basati appunto su elementi empirici, sia anche la conseguenza del fallimento di certi approcci, tutti basati sugli algoritmi, sulla statistica, sull'econometria, sulla matematica pura? Voglio dire, non è che gli operatori di Wall Street, che hanno poi generato e sono rimasti invischiati in questa bolla finanziaria tremenda, non avessero accesso alle informazioni, non è che non disponessero delle informazioni né dei modelli matematici, previsionali, le serie statistiche, i database con tutte le informazioni rilevanti. Non si può parlare di asimmetria informativa. Le informazioni le avevano, eppure abbiamo visto comportamenti non legati a un atteggiamento razionale, perché sennò non si spiega come mai gli stessi operatori si sono assunti i rischi che poi hanno portato allo scoppio di questa crisi. Ma guardi, in una battuta, forse di informazioni ne avevano fin troppe. Al di là dei modelli che usano certi tipi di informazioni e ne scartano altre, c'è poi un fattore umano importante, e il fattore umano in questo caso è in alcune situazioni eccessiva sicurezza di comportamento. Forse i modelli matematici hanno trascurato proprio aspetti di questo tipo. In fondo Keynes, per citare qualcuno che forse è stato stracitato in questo periodo, parlava di animal spirits. Animal spirits che cosa sono? Sono molte cose, sono intuizioni, sono emozioni, sono convinzioni, sono tutta una serie di elementi di irrazionalità che ci animavano ai tempi di Keynes e continuano ad animarci oggi. E ripeto, come ho detto prima, i modelli matematici queste cose le hanno trascurate, ma sono nei comportamenti di tutti i giorni dell'imprenditore, ma anche del trader, dell'investitore professionista, e a maggior ragione dell'investitore non professionista, insomma. E a voi sapere come vanno le vendite di Rossetto, di biancheria intima maschile, di pasta o di fagioli in Gran Bretagna? Può essere utile per capire o avere un'ulteriore conferma, appunto più empirica, di un ritorno della fiducia sugli investitori, sui risparmiatori, per cui un orizzonte che viene visto un po' più roseo, e immaginare quindi anche investimenti più, tra virgolette, rischiosi, come sono quelli tipici di quando si è più ottimisti, penso all'azionario a discapito dell'obbligazionario? Ma diciamo che questi sono indicatori normalmente utilizzati, indicatori empirici normalmente utilizzati più dai macroeconomisti, quindi per analizzare, diciamo, per prevedere cambiamenti nel ciclo economico. Quindi il passaggio ai mercati finanziari è decisamente più ardito. Ci sono indicatori magari non così poco ortodossi, ma comunque abbastanza chiamiamoli divertenti, insomma, o non tradizionali, che riguardano anche i mercati finanziari. Uno tra tutti è quanta volatilità c'è nel mercato, che sembra una cosa molto tecnica, ma che in realtà è la diretta conseguenza di quante opinioni diverse ci sono nel mercato. Ecco, al crescere della volatilità tendenzialmente si ritiene che la situazione sia più complicata, al diminuire della volatilità si ritiene che il mercato sia più tranquillo, e quindi un segnale sostanzialmente più positivo. Però anche lei, mi sembra, professore Salemanni, conferma che l'approccio solo razionale dell'individuo che più informazioni riceve meglio sa orientare le sue decisioni, in finanza in questo caso, è un approccio che è stato molto messo in crisi dalle conseguenze, io immagino, quantomeno non volute, oltre che non previste, di questa crisi finanziaria, cioè degli investimenti fatti prima e che hanno portato allo scoppio della bolla immobiliare e negli strumenti derivati. La crisi dell'anno scorso è una conferma del fatto che le informazioni non sono sufficienti, che le informazioni dure non sono sufficienti. E che quindi, assolutamente sì. E che quindi poi scatta un elemento anche non emotivo, ma diciamo non così basato su una logica stretta matematica? Ma chiaramente questa questo è corretto. I modelli matematici non sono in grado di cogliere la complessità presente nei mercati, o meglio, più un modello matematico è complesso, più deve fare delle ipotesi circa i comportamenti e tagliare fuori quegli elementi non modellizzabili, quindi l'irrazionalità per definizione, l'intuito, le cose che citavamo prima sono estremamente difficili da modellizzare e come tali quindi in modelli sofisticati fanno fatica a entrare. Non casualmente questi modelli sono detti modelli di razionalità assoluta e sappiamo perfettamente che anche la persona diciamo più razionale, quindi chi effettivamente opera il livello di razionalità assoluta non lo raggiunge mai per vari fattori, non ultimo il fatto che un essere umano ha dei limiti diciamo nel processare le informazioni. Beh, sono anche i limiti che lo rendono umano, altrimenti sarebbe più nel laboratorio che un essere umano. Grazie anche alla professoressa Barbara Lemanni, che insegna finanza comportamentale all'Università Bocconi di Milano. Grazie a voi, buonasera. Vedremo, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, poi se anche indicatori non convenzionali, non ortodossi, potranno fornire qualche lettura in più, integrare le letture sul futuro, che si brancoli, non dico nel buio, ma in una fitta nebbia, questo è abbastanza innegabile, nessuno si sta spingendo a fare grandi previsioni sulla forza con cui si uscirà e con cui si sta lentamente uscendo da questa crisi. Adesso però dal ragionamento sulla parte umana del consumatore, del risparmiatore, ai numeri veri e propri, alle cifre, le diamo i numeri, ma quelli di borsa, meno 2%, chiusura debole per Milano e anche meno 1,91 sul FTSE All Shares, mentre Parigi fa un meno 1,90 e Francoforte meno 2,5%, quindi giornata da dimenticare in borsa oggi. Londra meno 1,4%, l'America continua a peggiorare meno 1,7%. Prima di analizzare i titoli, e come immaginate di positivo c'è veramente poco oggi a Piazza Affari, saluto Paolo Paronetto, Radio Colli Sole 24 Ore, buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Vorrei capire il perché di un tono così debole, per essere quasi gentili, su tutte le borse europee e americane, anche perché questa mattina Tokyo invece va chiuso in leggero rialzo e anche Hong Kong. Sì, esattamente, il trend negativo, come ricorderemo, è partito già ieri, quando su tutti i listini europei sono scattate in parte le prese di beneficio dopo i rialzi delle precedenti settimane, e oggi ad alimentare questa tendenza negativa sono arrivati i dati sulla disoccupazione dell'Eurozona, in particolare, che è salita al 9,5%, cioè al livello massimo dal 99, cioè dalla nascita dell'Eurozona, e quindi negli ultimi 10 anni. Ovviamente questo dato alimenta i timori, è da tempo che i principali osservatori segnalano il rischio di un aumento della disoccupazione come i principali fattori negativi per questa fase che per molti inizia a essere di uscita dalla crisi, ma in cui gli strascichi sono ancora molto pesanti, e quindi ovviamente le listini azionarie hanno risentito di questo dato che conferma questi timori e sono scattate anche oggi le vendite. Sembrava nel pomeriggio che i listini migliorassero dopo il dato invece migliore delle attese sul settore manifatturiero statunitense, ma è stata una fiammata di breve durata e i listini hanno quasi azzerato le perdite per poi tuttavia chiudere, come abbiamo visto, sui minimi della seduta. Sì, i timori di un aumento della disoccupazione non ci sono più, la disoccupazione è aumentata a questo punto, forse i dubbi sono su quanto a lungo, a che livelli arriverà in primo luogo e quanto a lungo resterà su quei livelli, quindi quanto, certo, in che tempo si riuscirà a riassorbire questa disoccupazione. L'America sicuramente non ha dato una mano, c'è qualche motivo specifico in America, perché lì i dati sono stati abbastanza, come ricordavamo in apertura, in chiaroscuro, per cui non... non così negativi, meno 1,5% in questo momento il Dow Jones. Sì, esattamente, i dati negli Stati Uniti erano misti, diciamo che in una prima fase ha prevalso, come ricordavo, il dato migliore delle attese, l'indice ISM manifatturiero, quindi sul settore manifatturiero. Infatti i listini erano partiti discretamente trainati proprio dal comparto industriale, mentre invece poi hanno prevalso i timori, questa volta legati al settore immobiliare, che è da sempre, da mesi, il grande malato non solo dell'economia statunitense, ma naturalmente anche dell'economia statunitense, dato che in luglio le spese per costruzioni sono scese, sì, a sorpresa, si aspettava una lettura quantomeno invariata, mentre sono diminuite, e inoltre sono state riviste al ribasso anche quelle di giugno, quindi insomma nel settore immobiliare ancora la luce non si vede. Veniamo ai singoli titoli, oggi male soprattutto i bancari, non tutti però, perché il miglior titolo oggi tra quelli maggiore capitalizzazione, tra quelli più grossi, è il Banco Popolare, più 1,3%, poi c'è ST Microelectronics, più 1%, tra chi invece più ha perso citiamo subito Intesa San Paolo, meno 3,80% sotto i 3 euro per azione, 2,90 euro, UbiBanca meno 3,7% sulla soglia dei 10 euro per azione, Pirelli meno 3,60%, Geox meno 3,1 come Mediolanum, il 3% la perdita al cementi, il 2,7 Buzzi Unicem, Lecir e Autogrill, ma anche l'Automatica, il 2,6% il calo di Fiat, il 2,5% quello di Enel, il 2,3% il calo di Unicredito e Mediobanca, il 2% il calo poi di Bulgari, Mondadori, Campari e Saipem, in pregiudizio meno 1,90, Banca Popolare di Milano meno 1,7% come Mediaset, le Generali ed Eni, infine Ansaldo perde l'1,5 come Alleanza, A2A e Parmalat, in assoluti migliori e peggiori. Antiche Pelletieri, controllata dalla Burani, che sappiamo che versa in grosse difficoltà, meno 8,1%, e poi Gabetti meno 4,5, Philips meno 4,4, Renault stranamente meno 4,4, Pirelli Real Estate meno 4,3%. Fronte opposto, allora, Ascopiave più 4,70, Edes più 6%, Ergi Capital più 5%, Bastoggi più 2,6%, Credito Bergamasco più 2,3%. Di nuovo in diretta, dunque Paolo Paronetto, partiamo da ST Microelectronics e Banco Popolare, due titoli positivi oggi tra quelle maggiore capitalizzazione, più 1,3 Banco Popolare, più 1% ST Microelectronics. Sì, per quanto riguarda il Banco Popolare, ieri i titoli avevano perso terreno sulla scia dei conti semestrali insieme a quelli della maggior parte delle banche, mentre oggi invece è scattato il recupero, il titolo ha chiuso a 6,26 euro, beneficiando di alcuni giudizi positivi da parte degli analisti. Diciamo che se ieri c'è stata una prima reazione che ha risentito soprattutto del calo degli utili, oggi gli analisti, in particolare quelli di Deutsche Bank, si sono concentrati sulle notizie positive della semestrale del Banco Popolare, soprattutto per quanto riguarda la qualità del credito, e non solo per la capogruppo ma anche per la controllata Banca Italease, che sembra evidenziare una stabilizzazione del deterioramento della qualità del portafoglio crediti e di leasing. Gli analisti di Deutsche Bank, cioè la stabilizzazione del deterioramento vuol dire che si è fermata la caduta? Sì, esattamente, in particolare che non sarebbero emersi un grande aumento degli incagli, cioè dei crediti che passano da in bonis a un ritardo dei pagamenti, ma soltanto a un ulteriore peggioramento dei crediti già incagliati, quindi non ci sono nuovi flussi di sofferenze nei portafogli crediti. Quindi gli analisti di Deutsche Bank hanno confermato la raccomandazione buy, cioè comprare sul Banco Popolare, e hanno alzato il target price a 7,5 euro dai precedenti 6,5, cioè oltre un euro in più degli attuali corsi di borsa. Per quanto riguarda invece ST Microelectronics, il titolo ha beneficiato di una serie di notizie positive. In primo luogo l'associazione industriale del settore semiconduttori ha annunciato un'accelerazione delle vendite di microchip nel mese di luglio, e inoltre ricordiamo che Intel, il colosso statunitense Intel, ha rivisto al rialzo le proprie stime per il trimestre 2009, e inoltre gli analisti utenti di Nomura hanno raccomandato di comprare le azioni di ST, per cui hanno individuato un target price di 6,7 euro. Tutte notizie positive che oggi hanno spinto alla rialzo ST Microelectronics in borsa. Il titolo ha guadagnato l'1%, chiudendo appena sopra quota 6 euro. UbiBanca, immagino che pesi ancora la semestrale pubblicata sabato scorso, e lì insomma già il commento l'abbiamo fatto ieri. Alcuni di voi ci chiedono alcuni titoli particolari. Allora, non è nostra abitudine darli, visto che però avete mandato 7 messaggi in 4 minuti. Sui viaggi del ventaglio, meno 2,4% a 14 centesimi di euro per azione. Questa è la chiusura di oggi per i viaggi del ventaglio, però che non diventi, lo dico in maniera molto bonaria, ma un'abitudine quella di chiedere il singolo titolo. Ci occupiamo di quelli principali, delle variazioni principali, tra cui, ricordavo, oltre alla UbiBanca, invece Intesa San Paolo, meno 3,80%. Oggi il titolo Intesa è stato il peggiore della seduta, anche se ha peggiorato soprattutto sul finale, e non ci sono notizie particolari. Ovviamente Intesa risente di tutta questa ondata di vendite che colpisce ormai da 2 giorni, già da ieri, i titoli bancari, oggi ovviamente con l'eccezione del Banco Popolare. E le banche, ricordiamo che nel rally della prima parte di agosto e poi anche dell'ultima settimana e mezza, erano stati i titoli che avevano trainato i listini, e ovviamente appena è cambiato un po' il sentiment, quindi tornano a prevalere in parte i timori sulla congiuntura economica, sono i titoli su cui gli investitori per primi hanno preso profitto e che infatti in queste sedute stanno guidando le vendite e quindi i ribassi. Intesa tra questi era uno di quelli che aveva fatto meglio, la variazione dell'ultimo mese continua a essere abbondantemente positiva, è un più 15%, dall'inizio dell'anno circa anche qui un più 14,5%, quindi sono principalmente beneficio. Telecom Italia, volete sapere, oggi è la giornata dello stock picking del titolo singolo, va bene. Dicevamo di Eni meno 1,6, Ansaldo meno 1,5 come Alleanza Assicurazioni. Telecom Italia ha perso l'1% come Unipol, il Monte dei Paschi e Atlantia, ma anche Prismian. Ultimo titolo che vorrei citare è Autogrill, perché vediamo in realtà che Pirelli, lo abbiamo detto, meno 3,6, Geox meno 3,1, Mediolanum meno 3%, Autogrill molto altalenante, ieri bene, oggi meno 2,7? Sì, esattamente, oggi meno 2,7, e gli operatori segnalano appunto, come ricordavi tu, che ieri era stato uno dei pochissimi titoli a resistere alle vendite, quindi ieri alcuni si erano posizionati sul titolo, oggi chi ieri ha visto le proprie azioni guadagnare valore, oggi è passato anche sulla Autogrill e Realizzi, e quindi questo spiega questa flessione del 2,7%. Negativa poi Fiat, se Enel ha perso il 2,5%, Fiat ha perso il 2,6%, in attesa, quindi è scesa a 8 euro per azione, in attesa dei dati sulle matricolazioni auto che saranno diffusi tra pochissimo, ma di cui noi parliamo già adesso. Mancano pochi minuti infatti alla diffusione del dato ufficiale, relativo ad agosto, molto importante perché abbiamo visto cosa è successo nel resto d'Europa. Intanto grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, parliamo allora di quattro ruote. Eh sì, perché se fra 7 minuti scarsi arriverà il dato sulle matricolazioni di auto ad agosto, sarà importante capire se anche l'Italia si sta muovendo come altri paesi europei. Mi riferisco non tanto al Giappone, che di europeo ha molto poco, ma che ha visto per la prima volta da un anno e passa a questa parte crescere le vendite di auto, ma soprattutto a Francia e Spagna, più 7% in Francia, e in Spagna le matricolazioni di auto sono tornate ai livelli di un anno fa. Ora, visto che è tutta la puntata che parliamo di indicatori non ortodossi, non convenzionali, per capire come si sta muovendo, come si sta uscendo da questa crisi, le matricolazioni di auto, al di là di tutto, sono un indicatore molto importante. Gianprimo Quagliano, voce storica di Radio 24, visto che fra poco compiamo 10 anni, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Mio Dio, come siamo invecchiati. Comunque, no, per carità. Vabbè, tanto in radio non si vede. Fra qualche minuto usciranno i dati italiani. Io ho la sensazione che anche da noi ci sarà una buona crescita delle immatricolazioni, che sarà tra, diciamo, anche forse vicina a quella francese, più 7 in Francia, in Italia andrà più o meno, potrebbe, questa è la mia sensazione, così, avendo raccolto alcuni pareri. E anche la tua? Ma io ancora non lo so, ma comunque ho fiducia, aspettiamo le 6. Vabbè, intanto quello che possiamo dire è che dal resto d'Europa, Francia e Spagna, arrivano indicazioni interessanti. È tutto un effetto incentivi, perché visto che la puntata si gioca sugli indicatori, questi sono indicatori se non sono drogati, tra virgolette. Ora, spesso è stato fatto notare che gli incentivi hanno un effetto, però un effetto a breve, e tendono un po' a drogare il mercato. Ma è certamente un effetto incentivi. Anche il dato che hai citato sul Giappone è un effetto incentivi. Sono incentivi ecologici anche in Giappone. In Spagna, dove erano partiti con incentivi piuttosto modesti, il 18 maggio li hanno incrementati consistentemente e il mercato si è già riportato in pari, mentre accusava perdite intorno al 40% prima. E in Germania, dove hanno adottato incentivi particolarmente pesanti e fra l'altro non connotati in senso ecologico, perché sono 2.500 euro per la rottamazione di qualsiasi autovettura, il mercato è in vero e proprio boom. C'è da dire però un aspetto: che se è vero che gli incentivi alla rottamazione e gli altri incentivi ecologici o meno varati nei vari paesi europei e non solo europei stanno sostenendo il mercato dell'auto, è anche vero che dove il mercato dell'auto in Europa ha i risultati migliori, come in Francia e in Germania, l'economia sta dando segni di ripresa sempre più consistenti, mentre in Italia, dove si è investito sugli incentivi una cifra tutto sommato modesta, i risultati ci sono però abbastanza contenuti e comunque non c'è ancora un effetto significativo sulla congiuntura economica. Sarà interessante poi vedere dai dati che escono tra 3-4 minuti anche le singole marche, e cioè vedere se, vanno detto banalmente, le marche che producono auto di lusso continuano ad avere difficoltà, e se invece le marche che producono, e qui dovrebbe esserci casomai un vantaggio per il gruppo Fiat, e le marche che producono auto, diciamo, cosiddette utilitarie o comunque di fascia più bassa, avranno un incremento, perché anche questo, già in primo, può essere un segnale di comunque una difficoltà che resta nei consumi e negli investimenti. Certamente direi che sarebbe veramente una sorpresa se vi fosse anche una ripresa per le auto di livello medio, medio superiore o addirittura superiore, perché se una crescita c'è, lo vedremo fra pochi minuti, io penso che sarà certamente dovuta agli incentivi e quindi riguarderà prevalentemente le auto piccole e le case che producono auto piccole. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, per adesso darvi l'aggiornamento su questi dati auto che sono usciti. Bene, bene in Italia, più 8,5% complessivamente il mercato, ancora meglio fa la Fiat come gruppo, più 10% in generale, con Fiat come marchio più 10,1%, Lancia più 26%. Alfa Romeo invece è ancora in difficoltà, meno 8,8%. Gianprimo Quagliano, le analisi che facevamo prima dell'uscita dei dati mi sembra che si siano rivelate corrette. Sì, erano assolutamente corrette, infatti sono del tutto evidente gli incentivi alle auto ecologiche, gli incentivi alla rottamazione che stanno sostenendo questa ripresa, ma meglio sarebbe dire ripresina, perché agosto dell'anno scorso era un mese veramente depresso che fece registrare un calo del 26 e qualche cosa per cento. Forse più interessante è, come si diceva, andare a vedere dentro i dati dei singoli marchi, perché al di là del gruppo Fiat che abbiamo appena ricordato, se Renault va bene più 27%, Peugeot addirittura più 96% rispetto all'anno prima. Il 18% è l'aumento di Opel quanto immatricolazioni, anche Ford più 15, Citroën più 26, beh, insomma, BMW meno 28 e Mercedes meno 30%. Il dato mi sembra abbastanza incontrovertibile quanto analisi. Sì, il dato è assolutamente chiaro, vanno bene, ad esempio, tu li hai citati, tutti e tre i marchi francesi in agosto, che come i marchi italiani hanno una buona presenza di vetture di cilindrata contenuta e quindi sostanzialmente ecologiche e quindi assistite da incentivi alla rottamazione, mentre sono in difficoltà i marchi di lusso. D'altra parte c'è un'altra lettura interessante dei dati ed è che questa crescita è trainata esclusivamente dalle vendite ai privati, mentre le vendite alle aziende sono in calo, mi pare di vedere il dato, intorno al 30%. E questo naturalmente perché mentre i privati sembrano avere percepito meno la crisi, infatti gli indicatori di fiducia dei consumatori determinati dall'ISAE sono in crescita anche in agosto, per le imprese c'è un recupero negli indicatori di fiducia dopo aprile, però la fiducia resta ancora su livelli, almeno ragionando sulla base di questi indicatori dell'ISAE, molto più contenuti di quello dei consumatori privati. Giustamente fate notare che non ho ricordato Audi meno 13% sulle immatricolazioni. Grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Grazie a voi, buonasera. E adesso parliamo di occupazione o disoccupazione, visti i dati europei. Però il tema, il tormentone che abbiamo scelto per questa settimana è quello che ci ha lanciato il ministro Tremonti dal meeting di Rimini della settimana scorsa, ma non perché, lo dico chi scrive, noi a gennaio si sia invitato l'astrologa per dimostrare come a questo punto, viste le previsioni di chi faceva analisi di borsa e di mercato, visto quanto erano sballate, si poteva invitare anche l'astrologa, perché il tema ci stuzzica, c'è tutto, e insomma il passaggio di Tremonti al meeting di Rimini lo ritengo, comunque non la pensi, un pezzo eccezionale. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Telma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi. Eh sì, è troppo stuzzicante per non montarci sopra, perché ripeto, che gli analisti di borsa abbiano accannato le previsioni, che i target price, come si chiamano in gergo, siano stati assolutamente irreali, gli obiettivi di prezzo per le azioni, lo abbiamo detto spesso, però forse anche qualche economista, come dice il ministro Tremonti, dovrebbe fare un po' di autocritica. Abbiamo ricordato, lo dico chi scrive ieri, che ci sono stati fior di economisti in Italia e all'estero che avevano messo in guardia dai rischi della deriva dei derivati, per usare un gioco di parole, e dalla deriva del mercato immobiliare. Però in generale immagino che Tremonti si riferisca anche ai grandi centri studi, alle accademie, alle riunioni delle banche centrali. Di autocritica se ne è sentita poca. Ieri è stata la volta del presidente dell'ISAE, che ha ammesso, sì, forse un po' più di autocritica potevamo farla. Oggi, visto che poi parliamo di dati sull'occupazione, nostro ospite l'economista Tito Boeri, che insegna economia del lavoro alla Bocconi di Milano, uno dei fondatori del sito lavoce.it. Buonasera, professor Boeri. Buonasera. Poi arriviamo al mercato del lavoro e alla disoccupazione, però non posso non sentire anche la sua opinione. Allora, un po' di autocritica è mancata nell'accademia, nei board delle banche centrali, insomma in tutti quelli che si sono accorti della crisi quando era già scoppiata? Non mi sembra. Più che un'autocritica, direi che c'è una riflessione in atto tra gli economisti. Abbiamo avuto anche a Trento un processo agli economisti, tra l'altro personalmente contribuito ad organizzare, e abbiamo avuto tantissime occasioni di riflessione, soprattutto all'interno della disciplina. C'è un tentativo di porre rimedio sicuramente a tanti errori che sono stati fatti, non soltanto nella più che nel prevedere gli shock non è possibile, si può per definizione. Quello che si può cercare di fare è cercare di in qualche modo capire i meccanismi di propagazione, soprattutto che cosa succede, e su questo sicuramente ci sono stati degli errori su cui la professione si sta interrogando. Tra l'altro il fatto che metta in piazza e discuta pubblicamente di queste cose mi sembra un sintomo di grande vitalità. Ma mi lasci dire solo una cosa sul ministro Tremonti, sull'affermazione del ministro Tremonti. Io mi chiedo come si possono prendere seriamente delle affermazioni, non solo per il suo tono, ma da parte di una persona che nel 2001, quando era ministro dell'economia, ha scritto il suo primo documento di programmazione economica e finanziaria, preconizzando per l'Italia, prevedendo per l'Italia un nuovo miracolo italiano. Dal 2001 al 2005 è stato ministro dell'economia in Italia e dal 2008 ad oggi è tuttora ministro dell'economia, quindi non solo l'aveva previsto, ma doveva determinarlo perché aveva gli strumenti in mano. Ecco. Sì, a difesa a chi, non penso. A chi vuole insegnare a fare le previsioni? Sì, non penso, mi sembra che non. Non penso che Tremonti abbia bisogno di nessuna difesa. Quello che facevamo notare ieri è però che il politico, anche quando è ministro dell'economia, se sbaglia le previsioni, se diciamo. Se ne esce con dichiarazioni troppo ottimistiche, ed è successo per carità, però poi ha un prezzo politico in questo, cioè un governo che sbaglia le previsioni, che invita l'ottimismo e poi le cose non vanno bene, tende a essere penalizzato dal corpo elettorale, mentre diciamo, l'economista, questa è un po' l'accusa, non deve mai chiedere scusa, sbaglia le previsioni e poi comunque resta lì. Il politico può determinare con le sue azioni corso degli eventi, quindi ha la possibilità di attivare degli strumenti di politica economica per rendere tutto questo possibile, ecco. Quindi questo è il punto, quindi è chiaro che è giusto che su questo sia responsabile e sia chiamato a rispondere di tutto questo, ecco. Va bene, che su questo non ci possano essere lezioni dal nostro attuale ministro dell'economia. Va bene, vedo che insomma appunto, accoglie il rilievo ma solo fino a un certo punto. Ultima parte del programma. Allora, professor Boeri, disoccupazione in Europa al 9,5%, dicevamo la più elevata dal 99, in Germania siamo all'8,3%, in Francia quasi al 10%, in Spagna al 18,5%, l'Italia in questo panorama non esce male, 7,4% il tasso di disoccupazione, meno della Gran Bretagna che è al 7,7%, se poi si guarda fuori dall'Europa, l'America viaggia al 9,4%, il Giappone è messo meglio al 5,7%. Lei si attende che i prossimi dati saranno peggiori o comunque si sta, come si dice in gergo, stabilizzando la caduta? Guardi, innanzitutto l'Italia ha dei numeri più bassi degli altri anche perché i nostri dati sono più vecchi. Purtroppo le statistiche in Italia sono ferme al primo trimestre del 2009. Questo è un fatto molto grave. Io da tempo mi batto perché le statistiche sul mercato del lavoro in Italia siano più tempestive come negli altri paesi. Cosa ci si può aspettare nei prossimi mesi? Nei paesi che fanno peggio economicamente la disoccupazione è destinata probabilmente ad aumentare, perché la disoccupazione del mercato del lavoro segue con un certo ritardo l'andamento dell'economia e i dati sull'andamento del PIL sono tali da farci pensare che purtroppo l'Italia sia uno di questi paesi che sta facendo molto male, sta facendo peggio degli altri paesi dell'area euro, sta facendo peggio dei paesi che erano stati investiti direttamente dalla crisi, sia perché avevano avuto una bolla immobiliare, sia perché avevano avuto dei fallimenti di grandi banche. Ecco, lei pensi, l'altro grande paese europeo che era nelle stesse condizioni dell'Italia, quindi senza fallimenti di grandi banche, senza bolla immobiliare, la Francia, ha conosciuto sin qui cumulativamente una caduta del prodotto interno lordo del 2,5%, l'Italia è esattamente il doppio. Ecco, noi dovremmo cercare di capire perché perché siamo andati così male, questo sarebbe in parte anche una risposta poi a quello che può succedere sul mercato del lavoro, perché chiaramente se l'economia va così male lei può fare tutto quello che vuole, ma difficilmente può creare, cercare di estendere i trattamenti di cassa integrazione, cercare di tenere in vita dei rapporti di lavoro, ma alla fine purtroppo alcune imprese sono costrette a chiudere. Quindi su questo bisogna, credo, oggi incentrare l'attenzione, cercare di capire quale sia la politica economica più adatta. Su questo mi lasci solo dire una cosa, dato che siamo partiti con l'affermazione di Tremonti. La cosa più importante che ha detto Tremonti al meeting di Rimini è: state zitti economisti. Non è la prima volta che lo fa. Io sono un po' preoccupato di questo fatto, perché penso che sia un po' un richiamo, un po' un tentativo di non prestarsi a alcun tipo di critica da parte delle persone che hanno le competenze per fargliele. E siccome mi sembra che oggi c'è un problema davvero serio di politica economica in Italia, io credo che invece oggi sarebbe molto bello avere un confronto molto aperto in cui gli economisti esprimono le loro critiche, poi alcune saranno condivisibili, altre saranno sbagliate, potrà rispondere nel merito, ma chiederci di stare zitti non mi sembra un atteggiamento costruttivo. Sì, io adesso, perché non voglio continuare, io l'ho più letto come una richiesta di autocritica più che di silenzio, però insomma ogni interpretazione è valida. Personalmente la cosa più bella che ho sentito è stato quel riferimento agli operai dell'INSE, perché è vero che in America su una cosa del genere avrebbero fatto un film, ed è vero che ha dimostrato una coesione tra, come si diceva una volta, capitale e lavoro, e non più una contrapposizione. Comunque questo è un mio inciso. Ha detto state zitti per un anno o due, non è la prima volta che lo fa. Sarà almeno 3-4 volte che dice la stessa. Professor Boeri, venendo all'Italia, oggi c'è un dato sempre sull'occupazione delle grandi imprese in cui c'è un meno 4% sull'anno. Al netto, allora, considerando la cassa integrazione, il calo è del 2,7, però al netto della cassa integrazione il calo dell'occupazione è del 9,7%. Possiamo almeno dire che per ora la cassa integrazione, oltre che funzionare, sta anche tenendo in Italia? La cassa integrazione è sicuramente servita a tamponare situazioni di crisi, soprattutto nelle grandi imprese, purtroppo non nelle piccole imprese e non tra i lavoratori con contratti temporanei, tant'è che i dati purtroppo sulla disoccupazione vedono proprio una fortissima distruzione di posti di lavoro tra questi lavoratori, con contratti a tempo determinato che si sono ridotti di 150.000, collaborazioni coordinate e continuative, anche quelle falcidiate. Davvero lì c'è stata una fortissima distruzione di posti di lavoro e molti di lavoro ridotti anche nelle piccole imprese. È uno strumento molto selettivo, la cassa integrazione, che non copre tutte queste realtà lavorative, questo è un problema. È uno strumento che può servire per tamponare situazioni di difficoltà, però purtroppo i tamponi reggono fino a un certo punto. Se non si affrontano i nodi strutturali della crisi, alla fine non si può prolungare più di un tanto i trattamenti di cassa integrazione. Se le imprese sono in serie difficoltà e devono chiudere i battenti, non c'è cassa integrazione che tenga. Questo è il nodo, io credo, molto serio oggi, assieme a quello di una riforma seria degli ammortizzatori sociali che dia copertura appunto a quelle realtà che, come dicevo prima, sono rimaste sin qui fuori da qualsiasi protezione sociale. Sempre in tema di mercato del lavoro, nel chiacchiericcio che ogni tanto accompagna l'estate, la cosa che mi sembra più seria che è uscita in queste ultime settimane è il ragionamento su come rendere, non tanto far partecipare i lavoratori all'utile d'impresa, ma come generare un maggior salario all'interno della contrattazione aziendale. C'è stata un'intervista del ministro Sacconi a Corriere della Sera, poi ripresa oggi, c'è un'intervista al vicepresidente di Confindustria Bombassei su Sole 24 Ore, sempre su questi temi. Vorrei sentire la sua opinione, cioè dalla contrattazione aziendale, così come ne è uscita nel nuovo accordo firmato da Confindustria, parti sociali, sindacati, tranne la CGIL, può esserci un elemento che riesca anche a redistribuire un po' più di utile all'interno di una contrattazione, non però su base nazionale, ma su base della singola azienda? E con il governo che, se no la domanda è incompleta, l'aiuta defiscalizzandola parzialmente? Io penso che sia fondamentale legare più strettamente salario e produttività, perché soprattutto uscendo da questa crisi noi avremo una situazione di fortissima differenziazione tra le imprese. Avremo alcune imprese che hanno buone probabilità di riuscire ad agganciare la ripresa in altri paesi e di riuscire anche magari ad approfittare di queste ristrutturazioni che stanno avvenendo su scala globale, e quindi possono crescere, aumentare la produttività, diventare più efficienti, e queste imprese devono pagare di più i loro lavoratori. Purtroppo avremo anche tante imprese invece in serie difficoltà difficoltà, che rischiano di chiudere i battenti e che avranno bisogno invece di stringere la cinghia, e questo dovrà anche significare purtroppo anche contenimento dei salari. Per cui abbiamo bisogno di assetti contrattuali che permettano tutto questo, legando strettamente salari e produttività. L'accordo del gennaio scorso, mi sembra che lo riconoscano tutti ormai, non funziona perché ha lasciato fuori l'attore più rappresentativamente più importante tra i lavoratori e la CGIL, e perché quelle regole non sembrano funzionare. Io non penso che ci sia bisogno di intervenire fiscalmente, penso che si possa intervenire semplicemente con un minimo di attenzione, perché il problema serio anche su questo piano è quello delle piccole imprese. Oggi nelle piccole imprese in Italia non si riesce a fare la contrattazione, non ci sono agenti negoziali per farlo, non c'è sindacato in molte piccole imprese. Allora, per legare, è possibile però legare salario e produttività anche nelle piccole imprese, stabilendo delle regole nei contratti nazionali, ad esempio che una quota dell'incremento del reddito lordo operativo di un'azienda vada ai lavoratori come premio di produttività. Questa è una cosa importante da fare, quindi legare salari e produttività. Trovo invece sbagliata la proposta di in qualche modo fiscalmente incentivare la partecipazione agli utili dei lavoratori. Ora, nessuno lo vieta certamente, possono benissimo farlo i lavoratori se lo riterranno. Anno, ma perché dobbiamo fiscalmente? Cioè, quindi io però, mi scusi, professor, io non capisco perché lei, perché non le piace la proposta di Sacconi, che dice, adesso la riassumo in maniera anche imprecisa, in sostanza, se poi ci saranno una contrattazione molto forte a livello aziendale e il governo può agevolare questa parte della contrattazione nella singola azienda, non defiscalizzando totalmente perché non ce la fanno i conti, ma dando un'agevolazione fiscale. Se il governo riesce a farlo, conti pubblici alla mano, perché no? Sacconi ha detto due cose diverse. La prima è che vuole defiscalizzare la contrattazione di secondo livello, la seconda è che vuole defiscalizzare la partecipazione degli utili ai lavoratori. Io stavo rispondendo sulla seconda, ma posso parlare benissimo anche della prima. Sì, una battuta seconda, mi dice anche la prima. Sulla seconda, al flash, vorrei semplicemente dire questo: i lavoratori sono avversi al rischio molto di più dei loro datori di lavoro. Non trovo giusto che si trasferisca del rischio dai datori di lavoro ai lavoratori, e soprattutto incentivando fiscalmente questa parola, soprattutto su cose che non sono sotto il controllo dei lavoratori. Gli utili delle imprese non dipendono dai lavoratori, quindi non vedo perché dobbiamo fiscalmente incoraggiare tutto questo, e perché dobbiamo concentrare sul lavoratore. Non solo il lavoratore a quel punto rischia non soltanto col suo lavoro ma anche col suo risparmio, quindi trovo che sia una proposta sbagliata. Per quanto riguarda la defiscalizzazione della contrattazione di secondo livello, non fai conti con quel problema che le dicevo prima, cioè le piccole imprese. Lei pensa alle piccole imprese, questo è il problema italiano. Noi abbiamo un tessuto di piccole imprese enorme, non possiamo defiscalizziamo la contrattazione di secondo livello, daremo più soldi soltanto, come sempre, alle grandi imprese, ai datori di lavoro e in parte ai lavoratori delle grandi imprese. Non pensiamo a questa realtà fondamentale. Non è così che si fa, si incentiva la contrattazione di secondo livello. Se ci sono davvero le risorse per ridurre le tasse sul lavoro, riduciamole per tutti, facciamolo subito in modo significativo e sostanziale. Ci servirebbe per uscire dalla crisi, ma non facciamo queste cose che sono, tra l'altro, lei pensi alla complessità amministrativa di seguire una cosa per cui in quell'azienda c'è un contratto aziendale, allora i lavoratori, e se quel lavoratore cambia azienda che cosa succede? Perde il beneficio fiscale? È di una complessità amministrativa. Abbiamo già un fisco che è una cosa di una difficoltà amministrativa e di una complessità enorme. Vogliamo aggiungerci ancora questa complessità? Io francamente non la trovo una grande proposta. Beh, questo mi sembra molto chiaro. Grazie a Tito Boeri, che appunto insegna economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Grazie a voi. A chi scrive, l'ultimo commento: ospitiamo qualunque opinione, lo sapete, per cui il mio compito è quello di fare le domande, non di dare le risposte, e benvenuta anche quella di Boeri. Noi continueremo invece a cavalcare l'idea del se gli economisti, in senso lato tutti presi, non debbono fare un po' di autocritica. Per ora però è tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.